Allora, io mi chiamo Paolo Chialastri, lavoro presso lo sportello immigrati di Lanuvio, comune di Roma, e ci siamo trovati ultimamente, nell'ultima settimana, ad affrontare un'emergenza di una trentina di ragazzi rumeni, tutti uomini, non ci sono né donne né bambini, che da circa 5 mesi vivono in una baraccopoli, costruita ovviamente con mezzi di fortuna, nelle campagne di Lanuvio. La settimana scorsa il sindaco, quindi la giunta comunale, ha emanato una delibera di sgombero di questi ragazzi che verrà eseguita entro 15 giorni. La motivazione ufficiale per questa delibera di sgombero non è ovviamente per motivi razzisti o cose di questo tipo, ma perché la zona in cui questi ragazzi si sono accampati è soggetta a smottamenti, quindi la motivazione è una motivazione di sicurezza. E quindi, comunque sia, per forza di cose questi ragazzi verranno sgomberati. Il problema è che non riusciamo a trovare sia penso associazioni cattoliche quali potrebbe essere la Caritas, ma anche laiche come, non so, per esempio il Villaggio Globale, un alloggiamento anche soltanto temporaneo per questi ragazzi, che comunque sono tutti irregolari, non hanno permesso di soggiorno. Quindi l'appello che noi lanciamo, abbiamo anche richiesto l'aiuto di Melting Pot, di varie associazioni tramite internet, è quello di, ovviamente non vogliamo sistemarli tutti insieme, non pretendiamo questo, però magari qualcuno di qua, qualcuno di là, di riuscire a sistemarli un po' tutti, anche temporaneamente.